19 minuti primi, in ascolto dai microfoni di Radio Default, andiamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione purtroppo di aggiornamento dalla Palestina, arrivato ormai al secondo mese di attacco e al primo mese consecutivo di bombardamenti incessanti sulla striscia di Gaza. Ricordiamo velocemente i contatti della radio, www.radiodefault.it, dove potete trovare il nostro palinsesto, i nostri programmi e le nostre future iniziative, potete rimanere aggiornati in tempo reale su ciò che questa radio trasmette, ciò che avviene nel mondo, seguendo la nostra pagina Facebook Radio Default, e infine potete sempre venirci a trovare nei nostri studios di Genzano di Roma, a via Guidobaldi 56, passate il pomeriggio, potete intervenire con la redazione e magari lasciare qualche soldo a questa radio che non campa di aria ma campa delle sottoscrizioni di chi l'ascolta e di chi la ama. E quindi dicevamo, siamo arrivati abbiamo ormai superato il mese consecutivo di bombardamenti sulla striscia di Gaza, il bilancio che è stato aggiornato a 6 ore fa è di 1916 martiri, di cui 467 avevano meno di 18 anni, più di 70 famiglie massacrate durante gli ultimi 33 giorni di bombardamenti e situazioni umanitarie al limite del collasso, con con più del 25% della popolazione della striscia di Gaza che ormai è nuovamente profuga all'interno della striscia, cioè sono ritrovati con le loro case distrutte o gravemente danneggiate e quindi devono trovare rifugio in altri lidi, di certo non fuori dalla striscia che è blindata. La più giovane vittima di questa offensiva si chiamava Mustafa Wail al-Ghul, di 24 giorni, un neonato, che è stato ucciso insieme a 8 membri della sua famiglia durante il bombardamento della città di Rafah, nella parte meridionale della striscia, e le altre 4 vittime più giovani erano Rizka Butaha, di 2 mesi, Mohammed Anas, di 4 mesi, Fares Juma al-Mamun, di 5 mesi, e Samaha Nail al-Barawi, di 8 mesi, mentre la vittima più vecchia è stata Mohammed Mazen Faraj Dair, che è morto il 31 luglio a 99 anni. Quindi situazione umanitaria della striscia al collasso. Noi le informazioni le abbiamo appena prese dal Ministero della Salute di Gaza, come riportate dal quotidiano libanese Al-Akhbar, e situazione abbastanza critica per quanto riguarda l'aspetto umanitario e sanitario, con appunto il 25% della popolazione che è profughi all'interno della striscia, costretta ad accalcarsi nei rifugi dell'ONU e nelle scuole, senza ovviamente essere in grado di accedere alle basilari forniture sanitarie ed igieniche, visto che sono stati bombardati anche i pozzi dell'acqua e la centrale elettrica che alimentava sia il sistema fognario che le pompe di sollevamento. E quindi appunto una situazione per adesso al collasso. Buona notizia è che almeno oggi è stata fatta una nuova tregua di 72 ore, quindi 3 giorni di cessazione delle ostilità, Israele volendo, che è iniziata oggi e dovrebbe durare appunto fino a dopodomani. 72 ore in cui in cui continuano i colloqui indiretti tra le fazioni della resistenza palestinese e i dirigenti, i diplomatici dell'entità sionista, colloqui che si spera che portino all'accettazione da parte dell'entità sionista delle richieste della resistenza. Un'altra tregua era cessata venerdì scorso, i nostri giornali dicono che sono stati i palestinesi a romperla, in realtà non è proprio così, difatti era stata organizzata un'altra tregua di 72 ore che sarebbe dovuta scadere alle 8 di venerdì mattina. E Israele aveva detto che unilateralmente aveva dichiarato di voler concedere altre 72 ore, ma la resistenza ha detto che non accettava nessun passo unilaterale della controparte e che la tregua sarebbe stata possibile soltanto in cambio dell'ottenimento delle richieste dei palestinesi. In un video rilasciato per l'agenzia di stampa Ar-Rai, Abu Obeida, il portavoce delle brigate Zedine al-Qassam, braccio armato del movimento di resistenza islamico, ha dichiarato che le richieste della resistenza non avevano bisogno di negoziati perché sono diritti umanitari, diritti di base che vengono garantiti dalle leggi internazionali. E quindi aveva dato compito ai negoziati e negoziatori di non accettare nessuna estensione del cessate il fuoco senza aver ottenuto queste legittime richieste. E quindi ora la domanda è: quali richieste sono state fatte dalla resistenza? Qualcuno penserà, ma forse avranno fatto richieste assurde. In realtà le richieste non erano così assurde. Il primo punto era la richiesta di apertura di un porto e la ricostruzione dell'aeroporto della Striscia di Gaza. Ricordiamoci che la Striscia di Gaza confina col Mar Mediterraneo, con i territori occupati nel 1948, cioè la cosiddetta Israele, e con l'Egitto. I valichi di terra sono tutti chiusi, e soprattutto quelli con l'Egitto, dopo l'ingresso al governo del generale, dell'ex membro dell'esercito Sisi, e ovviamente via mare non si possono muovere perché ci sono le cannoniere israeliane che impediscono anche ai palestinesi di pescare. Quindi, oltre a questo, appunto, a questa richiesta legittima di costruire un porto e un aeroporto, chiedevano la liberazione di tutti quei detenuti che erano stati rilasciati in cambio del soldato israeliano Gilad Shalit e che erano stati riarrestati da Israele, che appunto è soltanto un richiedere di mantenere i patti già assunti. L'estensione dell'area di pesca per i pescatori a 12 miglia nautiche, che anche questa non è che sia proprio una richiesta eccessivamente onerosa. Ricordiamo che attualmente il limite imposto sono le 3 miglia nautiche, il che significa di fatto non poter pescare perché c'è una scogliera che impedisce ai pesci più grossi di passare nelle acque basse, e oltre a questo i pesci che si pescano entro le 3 miglia nautiche sono dei pesci, sono i cosiddetti cuccioli di pesce, quindi pescando quelli non si riescono, non ci saranno neanche pesci più grossi in futuro, insomma. E senza contare che molto spesso i pescatori vengono sparati o catturati e sequestrati anche all'interno delle 3 miglia nautiche. E poi si chiedeva la fine dell'assedio sulla striscia di Gaza, quindi la riapertura dei valichi di frontiera, soprattutto quello con l'Egitto, ma anche i valichi commerciali di Kerez Shalom e via dicendo, e soprattutto ovviamente il ritiro delle truppe di terra dal territorio di Gaza. Quindi non parliamo di richieste assurde, ma di richieste di base. Oltretutto ricordiamoci che chiedere la fine dell'assedio significa chiedere la fine di un assedio che dura da 7 anni, cioè l'assedio più lungo dell'età contemporanea, della storia contemporanea e moderna. 7 anni in cui significa mancato ingresso di forniture mediche, di cibo, di materiale per la ricostruzione della striscia, che attualmente vede questa come la quarta aggressione che porta alla distruzione di fabbriche, abitazioni, tutta roba che deve essere ricostruita e che senza l'ingresso del cemento non può essere ricostruita. Il che significa anche inflazione, perché se i prodotti alimentari non entrano normalmente devono entrarci di contrabbando attraverso i tunnel, che sono stati l'unica possibilità di far arrivare beni di prima necessità all'interno della striscia, ma che ovviamente, essendo un metodo illegale, aumenta il suo costo con un'inflazione molto alta. E di queste richieste l'entità sionista ha totalmente rifiutato di voler, voler permettere ai palestinesi di costruire un porto e un aeroporto e di liberare i prigionieri che in teoria si era già impegnata a liberare e che aveva riarrestato. Inoltre si riservava il diritto sia di continuare a portare avanti la distruzione dei tunnel di Gaza, questo significa altre aggressioni al territorio con uccisioni di bambini e civili, sia si riservava il diritto di condurre degli omicidi mirati di persone, che a casa mia significa, chi ha studiato un minimo di diritto internazionale, seppure qualcuno fosse responsabile di crimini di guerra, va preso e arrestato, non va ucciso senza processo da parte di un occupante poi. E sul resto era più o meno d'accordo. Ovviamente queste erano i primi tre elementi su cui si rifiutavano erano elementi oggettivamente ostativi che nessuna persona sana di mente avrebbe potuto accettare, e quindi riteniamo che non è stata la resistenza a rompere il cessato il fuoco, ma è stata Israele per non aver voluto accettare le legittime domande del popolo palestinese. Ci facciamo un piccolo stacco musicale. Questa è una canzone dedicata al Ghassan Kanafani, scrittore, artista e dirigente politico palestinese, ucciso nel 72 con un omicidio mirato, appunto, lui e la sua nipotina di 12 anni. E quindi ci vediamo fra 5 minuti. اسمو عريشي ظاهر منكوش بشعلة نار، اسمو عريشي ظاهر منكوش بشعلة نار، هالقادي بالمناضل كنفاني هالمغوار، ابن الجبهة الشعبي قاد الثورة بإصرار، ابن الجبهة الشعبي قاد الثورة بإصرار، قلمه رمز الحرية وهداية للثوار، اسمو عريشي ظاهر منكوش بشعلة نار، اسمو عريشي ظاهر منكوش بشعلة نار، هالقادي بالمناضل كنفاني هالمغوار. اسمو عريشي ظاهر منكوش بشعلة نار، اسمو عريشي ظاهر منكوش بشعلة نار، هالقادي بالمناضل كنفاني هالمغوار، ما مرحى يا ابني المخيم يا صامد يا جبار مرحى يا ابني المخيم يا صامد يا جبار والمتعود يتقدم ما بيتعب من المشوار سموع الريشي ظاهر منكوش بشعل النار سموع الريشي ظاهر منكوش بشعل النار هل ادي بالمناضل كنفاني هالمغوار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار هل ادي بالمناضل كنفاني هالمغوار لما استشهد بطلنا وصابوا غدر الغدار لما استشهد بطلنا وصابوا غدر الغدار هزنا استشهاد كنفان وما هزنا الانفجار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار هل ادي بالمناضل كنفاني هالمغوار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار هل ادي بالمناضل كنفاني هالمغوار لما استشهد بطلنا وروح وداوت الجروح لما استشهد بطلنا وروح وداوت الجروح روحوا في حجم الجبل تحمل عنا الجروح سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار هل ادي بالمناضل كنفاني هالمغوار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار هل ادي بالمناضل كنفاني هالمغوار بالحب بنزرع افكار وفي القلب بتنبت انوار بالحب بنزرع افكار وفي القلب بتنبت انوار مع كل طفل بيولد اغاني واشعار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار هل ادي بالمناضل كنفاني هالمغوار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار هل ادي بالمناضل كنفاني هالمغوار قرع الخزان علمنا الموت للصمتين قرع الخزان علمنا الموت للصمتين صروخ بصوتك عالي في وجه المحتلين سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار هل ادي بالمناضل كنفاني هالمغوار سموع الريشي ظاهر منهوش بشعل النار E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento dalla Palestina, ormai giunta al secondo mese di attacco, di repressione molto dura e al 33° giorno di bombardamento incessante sulla striscia di Gaza. Ricordavamo un po' le questioni diplomatiche e ricordavamo la grave situazione sanitaria e igienica in cui versa la striscia. Ma anche la situazione economica non sembra andare bene con una grossa inflazione, già era alta l'inflazione come abbiamo detto prima, a causa dell'embargo, ma questa offensiva ha portato a un nuovo innalzamento dei prezzi, soprattutto dei beni di prima necessità, dovuto a due fatti. Il primo è sicuramente il fatto che per i contadini è difficile riuscire ad arrivare alle proprie terre, che sono situate, la parte più fertile della striscia è situata al confine con Israele, già vittima di una chiusura chiamata buffer zone, ma che ora è stata proprio la zona che si è trovata sotto più i bombardamenti più incessanti, perché è da lì, secondo le fonti sioniste, che partivano i cosiddetti tunnel della morte di Hamas. Questo ha significato la quasi totale chiusura della zona a principale vocazione agricola della striscia, e quindi ovviamente sia i contadini trovano difficile andare ai campi, sia da una parte i campi sono campi frutteti, ma anche i pollai e le greggi sono andate distrutti nei bombardamenti. Ciò ha portato a un innalzamento dei prezzi, dovuto anche non solo ai contadini ma anche al trasporto, perché ovviamente il trasportatore, prima di andare in una zona ad alto rischio, chiede ovviamente un'indennità per quel rischio. E quindi in questi giorni di tregua chi va al mercato si ritrova a dover fare, si ritrova con una spesa dimezzata, con la per appunto per l'inflazione. Leggiamo dall'agenzia di stampa Man che prima un chilo di patate o di pomodori veniva venduto per uno shekel, ora il prezzo è salito a 3 shekel, quindi il 200% di innalzamento dei prezzi. E oltre a questo, chi va a comprare il cibo per sostentare la propria famiglia spesso si trova in una situazione o già precedente di disoccupazione. Ricordiamo che la striscia di Gaza aveva il tasso di disoccupazione più alto di tutta la Palestina, per non parlare della disoccupazione giovanile. Ma anche 33 giorni di bombardamenti hanno portato anche alla chiusura dei centri produttivi e quindi all'esubero dei lavoratori rispetto alle necessità produttive. E quindi questo significa essere da 33 giorni senza il già magro stipendio che si aveva prima. Oltre a questo, il presidente della Camera di Commercio di Gaza ha dichiarato che il conflitto ha provocato delle grosse perdite dirette e indirette per l'economia gazawi, che si protrarranno anche a lungo termine. Le perdite dirette sono circa di 3 miliardi di dollari. Ricordiamo che il PIL annuale della striscia è di 1 miliardo e 8 all'incirca, visto che sono stati praticamente rasi al suolo circa 50 fabbriche o comunque siti produttivi. Da questi microfoni abbiamo ricordato più volte l'abbattimento della pericolosa fabbrica di biscotti e gelati di Alauda, che conteneva appunto, oltre a pericolosissimi gelati e biscotti, anche dei due pericolosissimi tir pieni di medicine rare per gli ospedali di Gaza, che il proprietario ha deciso di accogliere nei propri frigoriferi, visto che la maggior parte degli ospedali di Gaza non ha attualmente accesso all'energia elettrica. E quindi questi sono 3 miliardi di danni dovuti appunto alla distruzione di fabbriche strategiche, oltre alla distruzione di 350 siti industriali di carattere minore o che magari sono stati danneggiati. E questo è ovviamente una scelta cosciente dell'esercito sionista, che non è sicuramente nuovo. Già durante Piombo Fuso vennero bombardati ripetutamente siti industriali. All'epoca la commissione d'inchiesta dell'ONU guidata da Goldman andò a fare appunto la commissione d'inchiesta e verificò che quelle fabbriche non erano sicuramente non costituivano un rischio per l'esistenza dello Stato di Israele, non contenevano né armi né altro, e quindi questa appunto è una scelta cosciente di impoverimento della popolazione della striscia. Attualmente l'unico settore che ancora lavora è quello del tabacco, anche se anche là, in quel caso, le sigarette nazionali, le Royals, hanno visto un incremento del prezzo. E poi c'è un'altra questione, ne abbiamo parlato la settimana scorsa leggendo il comunicato del ministro per gli affari dei detenuti, che dichiarava che circa 200 palestinesi erano stati arrestati durante questa invasione di terra, ma di cui non si sapeva né la collocazione né le loro identità. Attualmente invece ha risposto l'esercito israeliano, che ha ammesso di aver catturato 159 palestinesi senza però aver dichiarato la loro posizione né le loro identità, e questa è ovviamente una violazione del diritto internazionale. Oltre a non aver specificato se questi 159 sono stati catturati come prigionieri di guerra o come prigionieri dell'occupazione, visto che i regimi detenzione in questo caso sono diversi, le uniche informazioni che arrivano sono di 26 palestinesi che attualmente sono detenuti nella prigione di Ashkelon, poco a nord della striscia di Gaza, e che sono appunto detenuti dallo Shin Bet, cioè il servizio di sicurezza interno dell'entità sionista. Di questi, 6 verranno processati perché accusati di essere coinvolti o nel rancio di razzi o nella costruzione dei tunnel della resistenza. E sono stati accusati di essere affiliati ai gruppi della resistenza di Hamas e del Jihad Islamico. E anche su questi però non si parla del loro regime di detenzione, se di prigionieri di guerra o di prigionieri dell'occupazione. Noi ricordiamo che attualmente ci sono circa 6.500 palestinesi detenuti nelle carceri israeliane, di cui 1.500 sono stati catturati negli ultimi 2 mesi, la maggior parte dei quali a seguito del sequestro, della cattura e dell'abbattimento dei 3 coloni illegali catturati a Gush Etzion da un piccolo gruppo di irregolari palestinesi. Noi ci facciamo un altro stacco musicale e ci risentiamo fra 5 minuti. No, sbagliata la canzone. القمر في السماء عالي مثل القمر في السماء عالي أرواحنا ترخص للوطن وما يغلى على الوطن غالي سجل واكتب يا زمن ودون بالدماء أحواله هالجبهة وما اقبل العدو لو الموت جانا يا باي يا مسجل والاسم جبهاوية من 67 وإحنا في دائية التاريخ والله مسجل والاسم جبهاوية من 67 وإحنا في دائية هذا العمل إهداء إلى روح الحكيم بمناسبة الذكرى الخير. E ritorniamo in onda con Radio Cufia, la trasmissione di aggiornamento sulla repressione sionista in Palestina. Abbiamo parlato della striscia di Gaza, ora ci spostiamo geograficamente sul fronte delle carceri sioniste, dove è aumentata la stretta repressiva. Leggiamo da Samidun, una rete di solidarietà con i prigionieri palestinesi, che in questi ultimi giorni sono aumentati gli attacchi all'interno delle carceri. L'ultima domenica 10 agosto nella prigione del Naqab, dove i 200 membri delle forze speciali hanno fatto uscire i 124 detenuti e hanno ispezionato e devastato loro celle, distruggendo i loro possedimenti personali quindi con oltre che provocando i palestinesi, i prigionieri, con insulti e quello che tendenzialmente fanno tutti i secondini nelle prigioni. E questo attacco segue altri due attacchi, uno avvenuto sempre nella prigione del Naqab, in un'altra sezione, in tre sezioni, dove sono stati trasferiti e aggrediti tutti i detenuti, mentre il 7 agosto è successo lo stesso nella clinica della prigione di Ramla, dove le forze speciali hanno invaso il luogo dove erano tenuti i detenuti malati e li hanno costretti a delle perquisizioni corporali, costretti anche a spogliarsi, e hanno appunto devastato e perquisito le loro stanze. E questo anche interferendo con i trattamenti medici. Ricordiamo che molti detenuti attualmente sono nelle cliniche perché tre mesi fa hanno portato avanti uno sciopero della fame di massa per chiedere la fine della detenzione amministrativa hanno digiunato per parecchio tempo e quindi sono finiti in ospedale. Protesta contro la detenzione amministrativa che purtroppo non sembra aver sortito effetti, oltre agli effetti momentanei, perché la società dei prigionieri palestinesi ha dichiarato che c'è stato un raddoppiamento della detenzione amministrativa. Ricordiamo che la detenzione amministrativa è una legge che deriva dal mandato britannico, quindi dalla fine dell'impero ottomano, il periodo in cui governavano gli inglesi, e che permette la detenzione senza prove di chiunque possa essere considerato un pericolo per lo Stato. Questo significa che vieni preso, vieni carcerato per 6 mesi, non puoi accedere agli atti del processo perché sono segretati e a ogni udienza di convalida questa può essere convalidata fino all'infinito, cioè chi è passato decenni in detenzione amministrativa e soprattutto appunto negli ultimi 2 mesi di repressione, soprattutto nella campagna per cercare i palestinesi che avevano catturato e poi abbattuto i 3 coloni, si è fatto un grande ricorso di questo mostro giuridico che non ha eguali in tutto il mondo e che appunto ha visto passare crescere il numero dei detenuti amministrativi a 450, di cui soltanto 268 arrestati negli ultimi 2 mesi. E quindi questo è per quanto riguarda le carceri. Purtroppo la repressione non finisce in West Bank, dove continuano gli arresti e le uccisioni. L'ultima è avvenuta all'alba di questa mattina, dove un giovane palestinese del villaggio di Kabalan, vicino alla cittadina di Nablus, è stato praticamente assediato e alla fine ucciso dalle forze di occupazione. Il giovane di 24 anni, si chiamava Zaccaria Lacra, era stato accusato di aver sparato 2 settimane fa ad un soldato sionista mentre si trovava a difendere il proprio villaggio da una delle ennesime aggressioni che l'esercito sionista in questi ultimi 2 mesi, ma ovviamente dal 1967, porta avanti quasi quotidianamente contro i villaggi della West Bank. Le modalità sono abbastanza inquietanti e ricordano il martirio di un altro compagno che è avvenuto lo scorso febbraio. Parliamo di Muataz Washaha, membro del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, che è stato ucciso in modo simile a lui. Praticamente la sua casa è stata accerchiata, il giovane Alacra, per impedire di essere arrestato ed ucciso, ha risposto al fuoco, per fortuna ferendo 2 ufficiali israeliani, a cui auguriamo una lenta guarigione, soprattutto il fatto di non potersi più rialzare sulle proprie gambe. Quando avevano visto che appunto non riuscivano a entrare nella casa, hanno sparato numerose granate Energa. Vi invitiamo a guardare le statistiche di questa granata di fabbricazione belga, che diciamo non è proprio un ritrovato bellico adatto a gestire l'ordine pubblico, e infatti abbattendo parte della casa, ferendo i vicini e la famiglia e ovviamente uccidendo il giovane resistente, alla cui famiglia vanno tutte le nostre condoglianze e la nostra solidarietà. In tutto questo c'è una buona notizia, perché qualcuno dice: vabbè, ma cosa servono i razzi della resistenza? Qualche pacifinto italiano continua a dire: sì, va bene, agli attacchi israeliani, però i palestinesi devono smettere di lanciare razzi, perché è inutile lanciare razzi. Abbiamo avuto l'ennesima prova che il lancio di razzi è utile, quasi quanto la campagna di boicottaggio, perché la finale di Coppa Davis, che si doveva tenere a Tel Aviv, a quanto pare è stata cancellata per motivi di sicurezza. Si doveva tenere il 12 e 14 settembre, doveva esserci un incontro tra un tennista sionista ed un tennista argentino, però il Comitato Internazionale della Coppa Davis ha dichiarato che, a causa del conflitto militare, anche se attualmente sembra che stia andando un po' in de-escalation, comunque non ci sono i requisiti minimi di sicurezza per garantire sia l'incolumità dei tennisti sia degli avventori, e quindi o si terrà in Argentina oppure si terrà in qualche altra parte del mondo. E questo è una serie di è solo l'ultimo degli eventi che sono stati cancellati a causa, per merito dei lanci della resistenza palestinese. Ricordiamo l'aeroporto di Tel Aviv, che è stato praticamente chiuso dopo che la maggior parte delle compagnie aeree non ritenevano sicuro far volare i propri aerei in quella zona, visto che è stato proprio l'aeroporto oggetto di bombardamento, anche la nostra Analitalia. Insomma, è stato cancellato il concerto di Neil Young, quello che faceva tanto il solidale con i nativi americani, ma che poi è andato in barba alle campagne di boicottaggio, voleva suonare in Israele e non ha potuto suonare per motivi di sicurezza. E lo stesso è successo per il concerto dei Backstreet Boys, che noi non si ricordavamo. Infatti qua abbiamo il nostro critico musicale. Lei si ricordava dell'esistenza dei Backstreet Boys? Non più da anni. E neanche noi. Abbiamo scoperto che suonavano dentro Israele secondo me se li potevano anche tenere, in quel caso non avremmo fatto nemmeno la campagna di boicottaggio. Abbiamo scoperto che erano ancora vivi, non se li ricordavano nemmeno le rispettive mamme, Per motivi di sicurezza è stato annullato il concerto. Noi speravamo che si tenesse affinché un qualche razzo gli cascasse in testa e togliesse almeno questa disgrazia dal campo musicale mondiale. Almeno Neil Young aveva un minimo di valore artistico, questi manco quello, e quindi possiamo dire che dove non arrivano le campagne del boicottaggio, però arriva la resistenza palestinese con i suoi razzi, con i suoi gloriosi razzi, che appunto ha impedito questi eventi. Noi lasciamo un piccolo stacchetto musicale, ci ritroviamo fra 7 minuti per gli aggiornamenti da in giro per il mondo. Hello! العلم الأحمر لاح لاح لاح من رام الله للشياح الله الله جبهاوي وبإيده سلاح سلاح سلاح جيش العامل والفلاح الله الله لاح العلم الأحمر لاح لاح نهج الثور السليم هيك علمنا الحكيم عن نهج الثور السليم حيوا حكيم السلام حيوا حكيم السلام أمين الجبهة الشعبية راح العلم الأحمر لا لا حيوا غسان السلام حيوا غسان إنسان السلام أديب الجبهة الشعبية ولاح العلم الأحمر لا لا لا من رام الله للشيا طيارة للجميع هيك علمنا وديع والطيارة للجميع حيوا وديع السلام حيوا وديع السلام صقر الجبهة الشعبية وراح العلم الأحمر لا لا مستعمر دمر أوكارا هيك علمنا جبارا مستعمر دمر أوكارا حيوا جبار السلام حيوا جبار السلام شهيد الجبهة الشعبية وراح العلم الأحمر لا عصر العملاء عصر هيك علمنا النسر نعصر العملاء عصر حيوا معين المصري حيوا معين المصري نسر الجبهة الشعبية وراح العلم الأحمر لا لا هاوي وبيده سلاح سلاح جيش العامل والفلاح الله الله. E ritorniamo con Radio Cuffia, la trasmissione di aggiornamento sulla repressione sionista in Palestina, puntate agostane speciali, e passiamo ora alle notizie internazionali che in realtà pigliano anche un po' casa nostra. Innanzitutto la prima notizia che ci arriva viene da è una buona notizia, potremmo dire, viene direttamente dall'amministratore delegato di Starbucks, la catena di caffè abbastanza schifosi per chi li ha mai bevuto dentro. Io sono un grande fan dei bibitoni, però vabbè. Qualche tempo fa c'è un'applicazione per i telefonini cosiddetti intelligenti, si chiama Bycott, in cui ognuno può, è diciamo, di fatto una piattaforma in cui ogni utente può prendere e iniziare e pubblicizzare una campagna di boicottaggio, ed era apparso tra le varie catene da boicottare anche Starbucks a causa del sostegno che questa azienda fornisce all'occupazione della Palestina. È arrivata la smentita di Howard Schultz, che è l'amministratore delegato di Starbucks, che ha rilasciato una dichiarazione in cui appunto afferma che né lui stesso né la sua compagnia né la sua azienda forniscono supporto finanziario a Israele o al suo esercito, e che tutte queste cose sono dei falsi pettegolezzi. Ha poi precisato che la Starbucks ha chiuso i suoi negozi nell'entità sionista nel 2003 a causa di difficoltà operative che non sono, secondo lui, legate a tematiche politiche, ma insomma è arrivata rapida la levata di scudi dicendo no no, noi su questa roba non c'entriamo niente. E insomma è piacevole vedere che come qualcuno pronunci la parola Israele in giro per il mondo, la gente inizia a grattarsi e a prendere le distanze. Speriamo che questo avvenga anche in futuro, anche con altre ditte. Noi ribadiamo, quando sentite il nome Israele grattatevi, a seconda del genere della persona, i vari attributi relativi al proprio genere, non è un nome che porta bene e è bene che lo capiscano anche gli imprenditori. Già in passato, nei giorni scorsi, abbiamo visto sia Soros che Bill Gates lasciare le loro quote in SodaStream, azienda che ha una fabbrica all'interno della colonia, mi pare di Male, a Dumim, in cui si fabbrica spacciata per modello di convivenza tra israeliani e palestinesi, ma che in realtà dietro la facciata di convivenza c'era soltanto oppressione coloniale e oppressione di classe. Dopo le campagne di boicottaggio, Bill Gates e Soros hanno disinvestito, e come tanti altri aziende che appunto stanno tagliando i propri contatti economici con l'entità azionista. Quindi ribadiamo, se sentite la parola Israele, grattatevi. E passiamo ora a casa nostra. Infatti è arrivata una, sotto certi aspetti, positiva lettera da parte degli ebrei contro l'occupazione. Difatti, preciseremo anche meglio dopo perché è ben attesa. Difatti la campagna mediatica dei sionisti, sia i sionisti quelli che occupano la Palestina, sia i sionisti col mal di mare, cioè quelli che invece rimangono in Italia e fanno gli avvocati di Israele, continuano a insistere con l'analogia tra antisemitismo ed antisionismo. Noi ricordiamo che la lotta per la liberazione della Palestina non è una lotta religiosa, ma è una lotta politica che è una lotta politica e umana per la dignità di un popolo che richiede ritorno e autodeterminazione. Quindi ci sono ebrei palestinesi, cristiani palestinesi, musulmani palestinesi, atei palestinesi, per fortuna, e quindi non si tratta di una lotta di religione. Due settimane fa anche il capo supremo di Hamas, Khaled Meshaal, ha dichiarato che la loro lotta, insomma, Hamas non è propriamente una organizzazione laica, ma è abbastanza connotata religiosamente, e quindi ha ribadito che la loro lotta non è contro gli ebrei, ma la loro lotta è contro gli occupanti, e che secondo il suo movimento, quindi il movimento di resistenza islamico Hamas, tutti possono coesistere in Palestina, ebrei, musulmani e via dicendo. Ovviamente non si può coesistere con gli occupanti. E quindi arriva da una parte lieta la lettera di Stefania Sinigaglia, un'ebrea italiana, membro della rete ECO, Ebrei contro l'occupazione, che scrive una lettera aperta agli ebrei italiani, intitolata Ebrei italiani, come facciamo a tacere? La lettera, ricordiamo, è arrivata, sicuramente non è arrivata in attesa, perché sappiamo benissimo che per fortuna ci sono ebrei antisionisti in questo paese, in giro per il mondo. Noi ne siamo sicuri, ne eravamo sicuri già prima della lettera, ma ne siamo ancora più sicuri dopo. Però purtroppo questa lettera contiene qualche passaggio che a noi non ci piace, e quindi andiamo a leggerla. Sono un'ebrea italiana della generazione post 45, ebrea da generazione da parte di entrambi i genitori. Sento il bisogno impellente in queste ore di angoscia e di guerra tra Gaza, Palestina e Israele di rivolgermi ad altri ebrei italiani, perché non riesco a credere che non provino lo stesso sgomento e la stessa repulsione per la carneficina che Israele sta compiendo a Gaza. Non si mira a distruggere un nemico armato, non sono due eserciti ad affrontarsi, si sta sterminando un'intera popolazione civile, perché il nemico è ovunque, in un fazzoletto di terra che stipa in 365 km² 1.800.000 persone. Il nemico è sotto la terra sopra, sopra la quale c'erano case, scuole, negozi e ospedali e strade. C'è la gente, se vuoi colpire chi sta sotto la terra è gioco forza ammazzare chi ci sta sopra a quella terra. Anche un bambino lo capisce, ma fanno finta di non saperlo gli strateghi sottili di questo orrore infinito che si dipana sotto i nostri occhi. Come facciamo a tacere di fronte a questa ingiustizia suprema, noi che per millenni siamo stati costretti a nasconderci nei ghetti per vivere, che veniamo additati come responsabili nelle nefandezze mai sognate, obbligati a convertirci a volte per non essere bruciati sui roghi? Israele ha fondato uno Stato nel 1948 su terra altrui. Sappiamo come e perché. Ciò è stato accettato dal consesso internazionale e nel 1988 è stato accettato dall'OLP. I palestinesi hanno riconosciuto il diritto di Israele a esistere, ma Israele dal 1967 occupa terra non sua, e lo sa. E beh, e qua cominciamo ad arrivare al primo punto abbastanza critico. Israele occupa terra non sua non dal 1967, ma dal 1948. Ricordiamo che la Palestina va dal fiume Giordano al Mar Mediterraneo e che attualmente esistono 6 milioni di profughi che hanno il diritto di vivere in quella terra che secondo la Sinigaglia viene occupata non illegalmente, ma quando in realtà appunto l'entità sionista ne vieta il ritorno a queste 6 milioni di persone. E oltretutto io non saluterei molto calorosamente l'accettazione da parte dell'OLP dell'esistenza dello Stato di Israele. Di fatto il riconoscimento del 1988 è stato solo l'inizio di quel processo di resa che ha portato poi agli accordi di Oslo e alla situazione attuale in cui l'OLP, che tra l'altro quasi non esiste più, ha lasciato il posto all'autorità nazionale palestinese gestita direttamente dagli israeliani. E quindi Israele non occupa illegalmente dal 1967 ma dal 1948. Continuiamo a leggere. Per anni si è detto quella terra occupata serve a fare la pace, territori in cambio di pace. Questo è stato il refrain che però è stato nel corso del tempo sepolto da guerre non più di difesa, come nel 1967, ma di attacco, a partire dalla sciagurata invasione del Libano. E ricordiamo che la guerra cosiddetta di difesa del 67, oltre a portare all'occupazione della West Bank e della striscia di Gaza, ha portato anche all'occupazione di gran parte del Sinai, poi restituito poi con gli accordi del 78, ma soprattutto porta ancora all'occupazione delle alture del Golan. Come facciamo a non riconoscere che Israele ha scientemente per decenni ormai rifiutato di addivenire un compromesso sulle colonie? Non ha mai smesso di costruirne e di avanzare, annettendosi di fatto territori su cui doveva negoziare, annichilendo la base pur ambigua ma reale che erano gli accordi di Oslo. E anche qua possiamo dire che la base ambigua ma reale non ci pare troppo, né ci pare troppo ambigua né ci è parsa troppo reale. Di fatto gli accordi di Oslo hanno segnato la capitolazione da parte della dirigenza palestinese dalla lotta di resistenza. Ricordiamo che di fatto quegli accordi di Oslo non hanno portato le basi per la pace, ma hanno portato le basi per la creazione di Bantustan, esattamente come avvennero nel Sudafrica dell'apartheid, con l'unica differenza che i Bantustan dell'apartheid sudafricana non erano né riconosciuti né dalla comunità internazionale, né tantomeno erano entità riconosciute dalla leadership anticoloniale, che all'epoca era Mandela, l'African National Congress. E questo purtroppo invece è stato riconosciuto dalla cosiddetta leadership palestinese. Continuiamo con la lettera. Ha contribuito a creare Hamas, che in arabo significa collera giusta. In realtà non significa collera giusta, ma vabbè, soprassediamo. E poi ne ha tollerato la crescita in funzioni anti-OLP. Ha reso la vita dei palestinesi una lotta per sopravvivere anche in Cisgiordania e ha violato tutte le risoluzioni dell'ONU che gli imponevano di tornare alla famosa linea verde. E anche qua, non ci piace Hamas, la nascita di Hamas ha visto sicuramente fatti ambigui, però forse io più che soffermarmi, se fossi nella signora Sinigaglia, più di soffermarmi sulla... sulle varie fazioni palestinesi, sulle loro evoluzioni o involuzioni a seconda del caso, penserei ad altro. Oh, tra l'altro ricordiamoci che chi sta facendo la resistenza, per quanto brutti, non è che ci piace Hamas, però chi sta facendo la resistenza in questi giorni è prevalentemente Hamas, chi sta difendendo la popolazione della striscia di Gaza che si trova sotto i bombardamenti è Hamas, oltre, insieme alle varie ali della resistenza palestinesi. Purtroppo non sta facendo questo l'OLP, che anzi è praticamente morta e, come dicevamo prima, è stata sostituita dalla cosiddetta autorità cosiddetta nazionale cosiddetta palestinese. Ha rubato terra, ha rubato altra terra ai palestinese, costruendo la barriera di 700 chilometri dichiarata illegale dalla Corte dell'Aia, ma tuttora in piedi. E ora, con il pretesto dell'uccisione di 3 ragazzi di cui Hamas non ha mai riconosciuto la responsabilità, un'accusa che non è mai stata corroborata da prove, ha scatenato una guerra non a Hamas ma a tutto un popolo. Non si può uccidere e annientare un popolo per sconfiggere un nemico che ha il diritto di difendersi. E le richieste di Hamas non sono altro che le richieste della popolazione di Gaza: fine dell'assedio di 7 anni, fine dello strangolamento. Israele ha diritto a esistere dentro i confini riconosciuti internazionalmente, ma dal 1982 è aggressore e viola il diritto internazionale. Per avere la pace deve rinunciare alla folle idea di avere tutta la terra per sé e cacciarne chi ci abitava prima che arrivassero i primi coloni ebrei a fine 800. La guerra di Israele non è solo omicida, ma è suicida. Guardiamo al Libano, che sta insieme ancora per miracolo. Alla Siria distrutta, all'Iraq che va a pezzi, ai palestinesi che sono la maggioranza in Giordania, all'avanzare dell'islamismo salafita e jihadista in Africa settentrionale e occidentale, in Kenya e Nigeria. Quale avvenire promette la guerra in uno stato di apartheid? Quale possibilità invece per il riconoscimento di diritti uguali ai palestinesi e alle migliaia di rifugiati e immigrati che anche in Israele spiaggiano cercando una vita e un avvenire migliori? Quali prospettive aprirebbe uno stato multiculturale, binazionale e veramente democratico in Medio Oriente? Quale salutare rimescolamento delle carte? E qua ricordiamo che due nazioni non ci sono, la nazione è una, che è quella palestinese, l'altra è un ammasso di coloni che di certo non si può chiamare nazione, quella israeliana. Questa era la lettera della Sinigaglia, secondo noi andava un po' a giustificare il diritto a esistere di Israele, stato razzista e di apartheid, però perlomeno è una presa di posizione da parte degli ebrei italiani, da parte di ebrei italiani contro il genocidio sionista, e ci ricorda sempre che la lotta per la Palestina, la liberazione per la Palestina, non è una lotta religiosa ma è una lotta politica che chiede libertà, liberazione, autodeterminazione e ritorno alle terre occupate nel 1948. E questo alla facciaccia di Napolitano e dei suoi lacchè che continuano a dichiarare il contrario. E questa lettera avviene in un momento abbastanza delicato, perché nello scorso fine settimana i muri di Roma sono stati nuovamente imbrattati dalla marmaglia fascista, questa volta dei volantini di gruppo nazifascista Milizia, sì proprio quel coglione di Boccacci che il giorno di Pripke faceva finta di uscire ad affrontare i manifestanti, faceva finta di uscire dalla chiesa dei Lefebriani per poi farsi riportare dentro dalla polizia che lo proteggeva. Sì, esattamente, proprio lui. Hanno attaccato dei manifesti in giro per Roma con delle liste ignobili di proscrizione di negozi ebraici. Tutto questo hanno risposto i compagni italiani che da anni lottano a sostegno del popolo della Palestina, che ribadiscono che i fascisti strumentalizzano le vittime palestinesi. E trovate il comunicato sul sito bdsitalia.org, in cui i compagni italiani esprimono la netta e assoluta condanna di questi manifesti, condanna l'antisemitismo come ideologia razzista e reazionaria e condanna il fatto che le sofferenze del popolo palestinese diventino pretesto e strumento per tale infame ideologia. La campagna BDS è uno strumento di lotta non violenta elaborata dalla società civile palestinese ispirandosi al movimento contro l'apartheid in Sudafrica. E la campagna BDS globale, quella lanciata dai palestinesi, sottolinea che rifiuta ogni forma di razzismo, islamofobia e antisemitismo inclusi. E quindi questa è la risposta dei compagni italiani. Ma qualcuno dirà, vabbè, ma cosa ne pensano i palestinesi? In contemporanea è arrivato anche un comunicato dai compagni palestinesi dell'Aida Camp, il campo profughi vicino a Betlemme, che ribadiscono che rigettano al mittente ogni parallelismo tra la lotta di liberazione del popolo palestinese e la feccia fascista. Sionismo e fascismo sono due facce della stessa medaglia, il capitalismo, e quindi rifiutiamo in blocco qualsiasi tipo di sostegno da chi da sempre si è posto come braccio armato del padronato a difesa del capitale. Non accettiamo perciò alcun sostegno da chi sfrutta il dramma del popolo gazzawi, quindi palestinese, solamente per propagandare odio razziale e antigiudaico al fine di sostenere i propri meschini interessi. Da sempre combattiamo e combatteremo l'occupazione sionista, non la presenza ebraica in Palestina. Conosciamo bene i nostri nemici, intifada fino alla vittoria. E quindi questo è il comunicato che ci arriva dai giovani del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina di Aida Camp. E con questo noi chiudiamo anche questa trasmissione, questa puntata, sono le 18:37 minuti primi, noi vi diamo appuntamento a giovedì, vi ricordiamo che queste puntate speciali non vanno in vacanza finché durerà l'aggressione sionista contro la Palestina, ne ricordiamo invece di dare retta ai nazisti, ai vari nazisti che trovano ovviamente spazio sulle pagine dei nostri giornali come Repubblica, che per due volantini fascisti dedica la prima pagina, ma magari non si preoccupa di parlare di migliaia di persone in corteo per Roma contro l'antisemitismo, ma anche contro l'occupazione della Palestina. Noi vi ricordiamo di informarvi da queste frequenze e non da questi giornalacci, e se volete manifestare lasciate perdere la feccia fascista, ma venite ai presidi che si stanno tenendo in questi giorni al Colosseo, il presidio permanente, che oggi va avanti fino alle 8 davanti alla Metro Colosseo, domani sarà fino a mezzogiorno sempre davanti alla Metro Colosseo e poi mercoledì sempre davanti alla Metro Colosseo sarà dalle 17 alle 20. E poi cambierà luogo a meno che non finisca l'offensiva contro la Palestina. Noi ci diamo appuntamento a giovedì, sempre alle 19:30, sempre sulle frequenze di Radio Default, e ricordiamo, o auguriamo buona libertà a tutti e a tutti in Italia, ai Castelli Romani e in Palestina. E vi lasciamo con la nostra nuova sigla finale, Udrup Udrup Tel Aviv, colpisci, colpisci Tel Aviv.